Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte, c'è qualcosa che... questo... Allora, scusate, ho fatto subito una toppa, sono Lucilla e questa sera siamo insieme a Rosina e stiamo aspettando Annalisa. Parla Rosina. Stiamo aspettando Annalisa, la quale come al solito è in ritardo, comunque piano piano arriverà anche lei. Esatto, allora siete all'ascolto di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto e visto che ci siamo solo io e Rosina, noi ce ne rendiamo perfettamente Assolutamente conto. Assolutamente sì. E altra cosa da dirvi è che la trasmissione, qui ci tiene Caterina e non possiamo assolutamente esimerci dal dirlo, è la numero 133. E buone feste fatte, se vi è andata bene siamo contente e lo speriamo infinitamente. Questa sera la nostra trasmissione si potrebbe dire definire epistolare ecco, di curiosità, ecco, curiosità varie. Abbiamo un paio di lettere da leggere e abbiamo un articoletto che vi leggerà tra breve la qui presente Davida Crockett, perché sappiate che Rosina ha un cappello bellissimo con coda. Allora, intanto manderei un piccolo sottofondo musicale che vi piacerà sicuramente, ma tra breve appunto Rosina vi leggerà un pezzo. I love to know on the dresser. And my old wedding ring, these few goodbye words, how can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my. E allora, eccoci qui, dunque. Dicevamo della calamità, direi che effettivamente fra una calamità e l'altra questo articolo che Lucilla ha scovato è veramente una calamità effettiva a tutti gli effetti. Che dire, chi di noi non è mai stata in una sala d'attesa dalla dentista, dalla nutrizionista, dalla geriatra considerata la nostra età? Insomma, io dico sempre che il guaio di girare con gli occhi è che ci si espone a leggere certe cose nelle sale di attesa, dove sono sempre presenti su questi tavolinetti bassissimi, questi giornali di bassissima lega, oserei dire, e quelli che vengono definiti appunto i quotidiani femminili. E proprio da uno di questi, non i quotidiani, scusate, le pubblicazioni, le riviste femminili, proprio da una di queste riviste che si chiama appunto Amica, del 2003, perfetto. Consuelo Orsini, una giornalista, ci fa, come dire, sapere il suo pensiero originale sul lesbismo, direi anche con una finezza invidiabile che insomma, non è cosa di tutti i giorni. Ve lo leggiamo perché si tratta veramente di una chicca e a seguire vi leggeremo anche il commento della nostra inviata dalla provincia, la nostra Angela, che si è prodotta naturalmente in una risposta alla assolutamente soddisfacente dal nostro punto di vista alla giornalista Consuelo Orsini. Dunque l'articolo si intitola La terza via. Fare l'amore, o quasi, con una donna capita a molte, in modo naturale perché fra femmine si è abituate al contatto e all'affettuosità reciproca. Questo è il sottotitolo dell'articolo. Ma andiamo subito a leggere, e mi raccomando, tenetevi forte perché si tratta veramente di un pezzo straordinario, di rara bellezza. È la terza via dell'amore, la seduzione a 360 gradi, l'erotismo a tutto tondo. Una esperienza che può ripetersi o no, ma che comunque lascia un ricordo di grande dolcezza. Sono numerose le eterosessuali che raccontano di aver fatto l'amore con una donna. Nessuna per questo si considera bi o omo. Qualcuna sostiene che non è sesso, e qui la finezza. Non c'è l'uccello, non c'è l'urgenza, non ti morde la mutanda. Capita in momenti di gattismo testuale, per gioco, per caso. Ma anche l'attrazione fisica è una componente da non sottovalutare. C'è per esempio chi propende per le rosse muscolose, chi invece le preferisce più giovani e un po' ninfette, chi le vuole con le tette piccole e la pelle bianca come il latte. Difficile definire la linea di demarcazione fra la sfera innocente e quella più ambigua o morbosa. Sfumature enigmatiche, spesso inesprimibili, ben descritte da Dorothy Strecci, amica di Virginia Woolf, in Olivia, in uscita adesso da Baldini e Castoldi, romanzo elegante e squisito che, pubblicato anonimo nel 1949 in Inghilterra, divenne un caso letterario perché appunto narra la tormentata passione tra una studentessa e la sua professoressa. Poche zone d'ombra, ma molto sesso invece, in Polydex, esordio letterario di Adam Tirlwell, pubblicato da Guanda. Viene illustrato con dovizia di particolari, dal cunnilingus al fist fucking, la penetrazione con la mano chiusa, al gel lubrificante, il rapporto di due ragazze di oggi. Lucilla dosa sapientemente le pause per fare in modo che questo messaggio della Consuelo arrivi perfetto alle vostre orecchie. Qui non serpeggiano né sensi di colpa né imbarazzi, tutto avviene con molta naturalezza. I tempi sono cambiati, molti tabù caduti o sdoganati. Al contrario degli uomini, le donne poi sono abituate all'affettuosità e agli sfioramenti reciproci, fin da giovanissime. Allo specchio ci si confronta nude, fra amiche ci si abbraccia, ci si accarezza, a volte in viaggio si condivide lo stesso letto. Non è difficile che il sentimento viri verso qualcosa di più completo, anche per trasgredire e provocare un po' come Madonna e Britney. Oh, e qui riporta le parole di una intervistata. Quindi, fra virgolette, ho cominciato a 14 anni con una compagna durante un ritiro sportivo. Ci divertivamo a spararci con le tette a mo' di pistole, come Piperita Patti. Scusate, ogni tanto non posso fare a meno di mettere in mezzo Hockey di Lang, scusate. La quale non spara affatto con le tette, ma insomma. Ma insomma. Oh, dunque questo era il racconto di una praticante sporadica di avventure al femminile che continua. Dormiva nel letto a castello sopra di me. Una notte si è infilata nel mio, ha cominciato a baciarmi, toccarmi e non mi sono tirata indietro. Talvolta, prosegue la giornalista Consuelo Orsini. Oh, talvolta è un modo per scambiarsi informazioni o sperimentare. Determinante, udite, è la delusione dei primi rapporti con i ragazzi. Ecco che allora si cerca qualcuno che conosca i modi e i tempi con cui fare l'amore, senza ansia, senza stress. Confessa una improvvisata maestra. Abbiamo parlato a lungo del fatto che non riuscisse a provare l'orgasmo. Alla fine la mia amica mi ha supplicata di mostrarle i gesti da fare. Non ci ho visto niente di male. Prima l'ho accarezzata io, poi le ho preso la mano e gliel'ho messa sulla clitoride, mentre anche io mi toccavo. Quasi inconsapevolmente siamo venute insieme. Penso che lei mi sia grata per la vita, anche se non ne abbiamo più parlato. Scusa Rosina, a me è piaciuto l'inconsapevolmente. Vero, notevole. Oh, e prosegue la Consuelo Orsini con le sue perle di saggezza, le saremo eternamente grate per avercele ovviamente fornite. Oh, da adulte invece gli avvicinamenti del terzo tipo avvengono per una sorta di regressione infantile. Lucilla, posa il sonaglino perché è meglio. Una delle intervistate non si vergogna di ammettere che ogni tanto si trasforma in una mamma incestuosa, terrificante, e le torna la voglia di giocare alle bambole. E racconta: era ospite da me una ragazza che faceva uno stage, si è presentata senza mutandine in cucina mentre preparavo da mangiare, non ho potuto fare a meno di inginocchiarmi. Niente ruoli, tutto è interscambiabile, un erotismo senza stereotipi, prevaricazioni. A me viene da di tutte le fortune alle altre. Oh, comunque, l'intimità femminile, secondo la Orsini, ha una prerogativa: non è violenta né invasiva. Il prima si confonde con il dopo, senza una conclusione netta, come succede in un rapporto eterosessuale. A detta di molte, le donne sanno meglio degli uomini come accarezzare, baciare e leccare, anche se qualcuna ammette di sorvolare sul cunnilingus, perché preferisco il sapore del pene a quello della vagina. E beh, de gustibus. Il giorno dopo, poi, non provoca retropensieri, non lascia la sensazione di irreversibilità, a patto che ci sia parità di intenzioni. Non a caso, quasi tutte evitano storie con donne esclusivamente lesbiche. Dice wow. Un allumese di lunga data: nel mio periodo femminista ne ho conosciute molte. Alcune mi hanno fatto proposte che ho sempre rifiutato. Loro si innamorano, quindi sarebbe disonesto da parte mia. La ringraziamo. E le fa eco un'altra: è facile che mi capiti con qualche amica in una serata fra il bevuto e il fumato, ma una volta ho provato molto disagio, quasi quanto con un uomo che ci vuole provare e tu non vuoi, mentre ero sola con una lesbica non dichiarata neanche a se stessa sul suo divano. Il desiderio per l'altra ha anche a che fare con una sorta di curiosità. Continuano le interviste. Ho detto di no ad un'amica più giovane, morbida, con grandi tette, un po' simili alle mie, che è entrata nel camerino mentre mi spogliavo per guardare, forse come sarebbe diventata un giorno, mi ha avvolta con uno sguardo intenso e ammiccante dicendomi: sei davvero succosa, quando vuoi con te, quando vuoi. In realtà non mi interessava, la conoscevo troppo bene, a me piacciono ragazze un po' maschiacce con dei bei culi senza chili di troppo, racconta una delle intervistate che ammette che la passione per le donne non scompare mai. E infine Consuelo ci comunica che una relazione femminile non esclude un matrimonio o un amore importante. Ma va? Ma dai! Anzi, aggiunge, forse lo completa e conclude con il commento di un'amica lesbica che la dice lunga su una serie di cose: le donne sono così belle che piacciono a tutti. Davvero? Eh no? Salmi de son. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane e che si effettua nell'ambito del martedì lesbico e femminista autogestito di Radio Onda Rossa. Dunque, siamo qui in radio, se ci volete chiamare, ci potete chiamare allo 06 47 17, non mi ricordo, 00 mi sembra, e che se ci volete raggiungere ogni mercoledì la nostra redazione si riunisce in via San Francesco di Sales 1B. Scusate, il numero di Radio Onda Rossa è, avevo detto quasi bene, ed è 49 17 50 se volete venire presso di noi ogni mercoledì ci troviamo al Centro Femminista Separatista, il numero è 06 6864 201, il numero di telefono, di fax, eccetera eccetera. Adesso vi leggeremo il pezzo che ha preparato Angela, che è la nostra corrispondente dalla provincia, e tra brevissimo, prima ancora di quello, vi leggeremo il primo sms che è arrivato. Vai Rosina. Eccolo qua, ciao ragazze, ma che schifo di articolo, mamma mia, un bacio. E questo la dice lunga. Allora, abbiamo la linea calda. A quanto pare, squillano telefoni e Annalisa ancora non arriva e noi lo sapevamo, vabbè, comunque questo è. Allora, avete sentito prima il pezzo di Giuni Russo, che a noi piace molto, e che si intitolava L'oracolo di Delfi. Adesso vi leggiamo questa benedetta risposta all'articolo che abbiamo letto prima, quello tratto da Amica, e l'articolo così recita: momenti di gattismo, ovvero la terza via. È un'esperienza che capita per gioco o per caso. Talvolta è un modo per scambiarsi le informazioni o sperimentare. Determinante la delusione dei primi rapporti con i ragazzi. Da adulte invece, gli avvicinamenti del terzo tipo avvengono per una sorta di regressione infantile. Il giorno dopo poi non provoca retropensieri, non lascia la sensazione di irreversibilità. Di cosa stiamo parlando? Di un nuovo tipo di cellulare? Di un cibo che non fa ingrassare? Si pubblicizza forse un rivoluzionario metodo anticoncezionale? No, care amiche. La giornalista Consuelo Orsini ha scritto un articolo sul mensile Amica, dove svela che moltissime donne, forse a suo dire quasi tutte, sono preda di momenti di gattismo. Gattismo, non lesbismo o bisessualismo, ma con superba femminilità, o dovrei dire felinità, diventano delle vere e proprie micette che talvolta non cercano Romeo, ma bensì l'affascinante duchessa. Gridare dunque allo scandalo se le nuove tendenze sono pubblicizzate così garbatamente? Infatti l'articolo della Consuelo non fa scalpore, non suscita le ire o le preoccupazioni di celoduristi di cui è invasa la politica e lo stesso Vaticano. Al massimo fa stupire le amiche con cui prende il tè, sì, ma a pensarci bene, forse neppure quelle. Ci Ci vuole poco infatti ad essere meno fintamente sprovvedute di lei, lei che avrebbe raccolto le confidenze di alcune micette che rispetto al dopo ritengono che non si sia trattato neppure di sesso. Ma quale? Quello degli angeli? No, scusate, siccome non c'è l'uccello, la gattina non si sarebbe divertita con il nuovo giochino, ma continuando a leggere la frase che recita «Non c'è l'uccello, non c'è l'urgenza, non ti morde la mutanda», mi è venuto spontaneo pensare «Però ti è piaciuto fotterti la Yolanda?». Ma quasi a reprimere i miei pensieri, Consuelo spiega, facile facile, che all'etero talvolta capitano momenti di gattismo, per gioco, per caso. Poi aggiunge, bontà sua, che anche l'attrazione fisica è una componente da non sottovalutare. Ma le gattiste sono alquanto bizzarre, in quanto a preferenze meramente fisiche che vengono così descritte. C'è chi propende per le rosse muscolose, pagherei per conoscerne una, dice Angela, chi invece le preferisce più giovani e un po' ninfette. Qui si attinge addirittura alla mitologia, chi le vuole con le tette piccole e la pelle bianca come il latte, de gustibus. Il gattismo nasce in tenera età. Al contrario degli uomini, le donne poi sono abituate all'affettuosità e agli sfioramenti reciproci. Fin da giovanissime, allo specchio ci si confronta nude, fra amiche, e ci si abbraccia e ci si accarezza. A volte in viaggio si condivide lo stesso letto. Non è difficile che il sentimento viri verso qualcosa di più completo. Oh, meraviglia! Il gattismo dunque si sviluppa per mera contiguità, e quando i corpi femminei si sfregano l'un l'altro, ecco che avviene il prodigio sorprendente. E il sentimento vira su mari aperti e tempestosi del sesso consumato per puro caso. Ma di nuovo sono in errore. La saggia Consuelo precisa che talvolta è un modo per scambiarsi informazioni. Ma sì, sì, come la danza delle api, danzando si scambiano informazioni. O sperimentare, diamine. Sono dunque delle intrepide esploratrici, ma subito dopo trovo la spiegazione più convincente. Lo diceva sempre anche mia nonna. Determinante è la delusione dei primi rapporti con i ragazzi. Ecco che allora si cerca qualcuno, notare. Qualcuno, non qualcuna, che conosca i tempi con cui far l'amore senza ansia, senza stress. Dal gattismo al tisanismo. Ecco dalla terza via. Se i maschi deludono, le donne diventano allora un transitorio ma magnifico toccasana. Consuelo raccoglie inoltre la confessione di un'improvvisata maestra, la quale, con tono professionale, riferisce di aver insegnato ad una sua amica cosa fare, quindi come fare, per raggiungere un orgasmo. Il racconto della maestra è avvincente. Prima l'ho accarezzata io, poi le ho preso la mano e gliel'ho messa sulla clitoride, mentre anche io mi toccavo, quasi inconsapevolmente siamo venute insieme. Che giochino avvincente! Potremmo definirlo le piccole etero si conoscono, ma in modo inconsapevole, peccato per loro. Consuelo comunque si premura di narrare anche cosa accade da adulte. Da adulte, gli avvicinamenti del terzo tipo avvengono per una sorta di regressione infantile, già. Chi insiste con certi atteggiamenti propri di età precedenti è un'immatura e quindi si trasforma in una mamma incestuosa e le torna la voglia di giocare alle bambole. Penso, e che c'entrano le bambole con i momenti di gattismo? Ma l'ulteriore confessione raccolta dall'instaccabile Consuelo chiarisce ogni dubbio. Leggiamola. Era ospite da me una ragazza che faceva uno stage. Si è presentata senza mutandine in cucina mentre preparavo da mangiare. Non ho potuto fare a meno di inginocchiarmi. Diamine, avrà avuto una visione mistica? No, no, non proprio. Però qualcosa non mi torna. Da bambina non mi inginocchiavo davanti alle bambole nude. Il problema è che quando l'etero vedono una senza le mutande, cadono in ginocchio e te la vogliono per forza. No, non può essere. A me non è mai capitato. Queste fortune capitano solo alle amiche delle giornaliste che, nonostante tutto, hanno le idee confuse, perché la stessa Consuelo subito dopo riferisce che l'intimità femminile ha una prerogativa: non è violenta né invasiva. Il prima si confonde con il dopo, senza una conclusione netta, come succede in un rapporto eterosessuale. Strani amori, strane idee, ma come il prima si confonde con il dopo? E di che dopo si tratta? È un dopo inconcludente, visto che si confonde con il prima. Mamma mia, che stranimento! Ho urgente bisogno di un ripasso, di una verifica, di toccare con mano la realtà. No, a cosa state pensando? Non quella di Consuelo, è già troppo incasinata di suo. Ci avviamo alla conclusione dell'articolo. Ovviamente il tema è quello della contraccezione. Si sa, le etero sono molto sensibili al problema e, come è ovvio, uno tra i numerosi vantaggi di una passionale notte d'amore con un'altra donna è che il giorno dopo non provoca retropensieri, non lascia la sensazione di irreversibilità, a patto che ci sia parità di intenzioni. Non a casa quasi tutte evitano storie con donne esclusivamente lesbiche. Ma dico, Consuelo, ti senti bene? Riesci subito a svilire un indubbio vantaggio, quello dei retropensieri, a patto che non ci si imbarchi in un'avventura con una lesbica? Hai proprio scritto e firmato tu il presente articolo? Hai idea delle fottute corse che mi sono fatta nel momento in cui le etero sono venute a sapere che una lesbica, che sono lesbica e che avrebbero voluto sperimentare subito i loro momenti di gattismo, la terza via, la via crucis, i cunilingus immediati, le sveltine in macchina, le scopatine veloci mentre l'ingenuo marito dormiva nella stanza accanto e così via. In realtà è ormai noto che sono le lesbiche a dover temere le etero e non viceversa. Ma forse, cara Consuelo, ti è sembrato, diciamo, più romantico raccontarci i cosiddetti momenti di gattismo più che quelli di vero e proprio lesbismo, di cui sono affette molte, moltissime etero di nostra conoscenza. E non a caso concludi il tuo articolo con un'ammissione di una delle tue intervistate, la quale afferma, e qui il discorso diviene all'improvviso serio serio, la passione per le donne non scompare mai. Ma forse spaventata dall'aver detto qualcosa di troppo, specifica: una relazione femminile non esclude il matrimonio, lo sappiamo, o un amore importante, già, ma per un uomo o per una donna, boh. E l'intervistata conclude, così come l'articolo si conclude, con il commento di un'amica lesbica: le donne sono così belle che piacciono a tutti. Vero, Consuelo? Scusate, io e Rosina dobbiamo dare il benvenuto. Naturalmente. Annalisa? Ciao a tutte. Buonasera. Buonasera. È arrivata tardi per il non potevo mancare in questa giornata. Esatto. Ho finito ora di consegnare i regali. Ora. Mi hanno fatto pure un trillino, sarà qualche bambina. Esatto, a cui è piaciuto, sicuramente il regalo che gli hai portato. Allora, sono arrivati altri sms. Prima di passare all'altro contributo, che è meno gioioso purtroppo, ma che ci corre l'obbligo di leggere, vogliamo ricordare il numero del cellulare presso il quale potete, se volete, mandare dei messaggini di gradimento o di non gradimento, come credete più opportuno, di consigli, eccetera eccetera. Ma soprattutto, se possiamo eleggere per esempio la Orsini a giornalista dell'anno, che mi sembrerebbe una cosa alquanto interessante, il minimo. Approvato, aderisco. Aderiamo. Allora, intanto il numero del cellulare è 338 41 46 682. E il pezzo musicale che avete sentito era della Casale, e che si intitola Che servono gli dèi, e insomma ci sembrava abbastanza indicato. E adesso la nostra carissima Annalisa vi leggerà una cosa che ci ha mandato Rosanna Fiocchetto. Sì, cogliamo l'occasione sempre per salutare e ringraziare Rosanna Fiocchetto dei suoi preziosissimi contributi, e pensate che questo è arrivato il 24 di dicembre. E sono proprio i suoi pensieri, oggetto dell'email e quindi del suo articolo, intitolato Bianco e Nero. E vediamo cosa scrive Rosanna Fiocchetto. Carissime, questa mattina è tutto bianco di neve. Continua a nevicare e io continuo a pensare a come sarebbe se la neve cancellasse tutto, ma proprio tutto, in modo permanente, e noi potessimo reinventare tutto il mondo come quando si scrive a partire da una pagina bianca. Sono pensieri bianconeri, perché mi vengono suscitati anche dalla notizia della morte di Paola, la ragazza ugandese che 3 giorni fa è stata suicidata a scuola perché è lesbica. Ho appena visto tra l'altro il film della regista canadese Lea Poole, L'altra metà dell'amore, che è sullo stesso argomento, solo che qui la scuola è per ragazze bianche, ricche, e invece della bastonatura pubblica che Paola ha dovuto subire in Uganda, quello che costringe al suicidio la protagonista della storia è un linciaggio morale. E ho appena riletto il racconto della scrittrice tedesca lesbica Christa Rening, La scuola infinita, che denuncia i meccanismi nazifascisti di costrizione eterosessuale delle ragazze. Cito questi due esempi non per amore delle citazioni, ma per far capire che tutto il mondo è paese per le lesbiche e che la repressione che ci colpisce è simile, pur a diversi livelli dell'orrida gamma della violenza eterosessuale, patriarcale e fratearcale. A cosa ci servono i privilegi del capitalismo bianco quando anch'essi conducono alla nostra eliminazione fisica nel caso peggiore e nel caso migliore ad una vita alienata, infelice o nascosta? Per questo è essenziale sviluppare la solidarietà a livello internazionale e globale, senza frontiere tra noi, perché finché anche una sola di noi sarà schiava, nessuna di noi sarà veramente libera. Propongo allora di organizzare 2 azioni di solidarietà. Una campagna di protesta contro il governo dell'Uganda e contro lo Stato del Vaticano. L'Uganda ha incorporato nella sua legislazione il concetto vaticano secondo il quale la sessualità lesbica e omosessuale va criminalizzata, e le conseguenze di questa scelta nella società sono quelle di autorizzare i cittadini a procedere legalmente ad una spietata pulizia etnica dei soggetti criminalizzati. Si tratta dunque di 2 casi, in questi 2 casi, così come in altri, di stati assassini, i cui governanti hanno la diretta responsabilità morale di morti come quella di Paola. E seconda cosa che propone Rosanna Fiocchetto, creare un fondo di sostegno economico per facilitare l'emigrazione dagli stati assassini delle lesbiche perseguitate che rischiano la pelle. Questi sono i miei pensieri in bianco e nero, la mattina del 24 dicembre, il giorno del Natale degli assassini. E il mio augurio è che la neve possa seppellirli per sempre. Un abbraccio da Rosanna Fiocchetto.

Hai visto? Con i cellulari. Un bacio a chi me l'ha fatto. Si ottiene tutto con i cellulari adesso. Ti stai chiamando da sola, da sotto il bancone. Allora, siamo in conclusione di trasmissione. Vi ricordiamo che potete ascoltarci anche in diretta, lo sapete, e vi dirà come Annalisa. Sì, ah, vedi, alla sprovvista mi hai preso. Collegandoci sul nostro sito che è www.clrbp.it e cliccate sulla sezione relativa alla radio, potete leggere qualche articoletto e c'è un'icona con sopra scritto in diretta, dopo pochi secondi sarete direttamente in contatto con Radio Onda Rossa e con noi. Quindi anche con Radio Onda Rossa potete collegarvi anche attraverso Radio Onda Rossa. Potete venire a visitare il nostro sito che è www.clrbp.it, scriverci le mail con tanti contenuti, quello che vi viene in mente di volerci dire, possiamo leggerlo o non leggerlo alla radio, l'importante è sapere che ci siete ad ascoltarci. E vi dico quindi il nostro indirizzo email che è contatti@clrbp.it. Insomma, non è bellissima ma è bravissima, almeno questo. Esatto, e allora vi salutiamo. Alla prossima settimana. Un bacio a tutte da Annalisa, Lucilla e Rosina. Baci. Ok. Rimanete con noi però, è un quarto d'ora di diretta. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Siete sempre in compagnia nostra ed è Angelique Kidio. Che bella pronuncia. Oh, dunque posso dire... Short Thomas. Oh, vorrei dire due parole. Abbiamo ricevuto orora testé un messaggio che riferisce le testuali parole. Annalisa inclusa, virgola, senza dubbio, punto, esclamativo. Riferendosi ovviamente al fatto che anche Annalisa è bellissima, il che è tutto dire. Io la simpatica amo. Ascoltatrice. Mi avete escluso pure il microfono, ci sono. Certo, si capisce, abbiamo escluso il microfono di Annalisa. Grazie ragazze, vi adoro. Oh, la simpatica ascoltatrice evidentemente non ha mai visto Annalisa. Comunque vorrei comunicarle che Annalisa si è lamentata del fatto che c'è scritto solo questo, perciò potevi anche, come dire, dilungarti su questa No, va benissimo così. E adesso qualche appuntamento alla Casa Internazionale delle Donne. Dunque, venerdì 9, ore 18:30, sala convegni, primo piano. Proiezione del cortometraggio, sì, lo so, La forza che ho, video di promozione della Casa Internazionale delle Donne. Intervengono Patrizia Sentinelli, Commissione delle Lette, Mariella Gramaglia, Pari Opportunità, Francesca Comencini, regista, Laura Valle, regista. E com'è questo tono così... Ufficiale, direi. Un tono ufficiale. Viviana, falla finita che è meglio. Ci è arrivato un altro sms di Viviana che ci dice testè. Viviana è fidanzata, mannaggia. Non è vero, l'ho vista ed è stupenda. Ma quando mai? La confonde con me naturalmente. Ma chi è stupenda? Annalisa, ma quando mai? Ma chi l'ha detto? Viviana, l'amore mio. Viviana, ma scusa, di me non dici niente? Scrivi qualcosa pure su di me. È arrivata la taverna, ragazzi, abbiamo ancora 10 minuti. Ah, qui cerchiamo di reggere. Cerchiamo di fare le cose seriamente. E allora il prossimo appuntamento sempre alla Casa Internazionale delle Donne, martedì 13 gennaio 2004, ore 18:20, sala riunioni piano terra, generi e generazioni, scuola di studi femministi, primo incontro del corso di Bianca Pomeranzi, donne del nord, donne del sud, 5 incontri sulle politiche di cooperazione nel mondo globale. Il primo incontro è donne e sviluppo nel sistema ONU, dalla conferenza di Città del Messico alla conferenza di Nairobi. Le ragazze battono la fiacca, volete sapere qualche altra cosa? No, è carino questo tono ufficiale che usi, veramente. Come ti è venuta l'idea? E che vogliono sapere quando è il nostro prossimo appuntamento. Il nostro prossimo appuntamento? Solo donne. Solo donne. Only women. Bravissima, Lucilla. Sono orgogliosa. Nur Damen. Ma il nostro appuntamento prossimo solo per donne sarà a gennaio, naturalmente. Gennaio, inizi febbraio al massimo. E collegatevi al sito, oppure martedì prossimo sicuramente Caterina vi dirà cosa faremo. Di che anno, dice Rosila? Di che anno, scusa? Di quest'anno. Ah, 2005. Poi sono rimaste pure le ultime lesbotombole, per chi volesse, questa idea carina. Wow. Rena parla ancora. Uniche in Italia, in Europa e probabilmente nel mondo, ve lo ricordiamo. L'autrice... L'unica tombola lesbica l'abbiamo fatta noi e la promuoviamo noi. Quindi... A prezzo politico, 10 euro. Assolutamente. Quindi potete ancora prenotarla, ve la inviamo, oppure venite a prenderla da noi, il che è meglio. Ci mettiamo dentro anche una fotografia di Annalisa. Anche no, perché c'è. Primo piano c'è siamo già, al 90 già. Siamo al numero 90, la paura. Ma tu dico una fotografia tua, un primo piano tuo, no. Da sola, sì guarda proprio in da... privacy. Senti, dietro al cartellone, senti, dietro al cartellone ce la mettiamo, Annalisa. Però volevo dirvi anche questo, cioè non è che a tombola ci siete giocare per forza per Natale, giusto? No. Anche alla, alla prima lesbo tombola si può giocare durante tutto l'anno. Esatto. Tutto l'anno ve la potete regalare alle vostre amiche durante tutto l'anno. E tu? Un pensiero stupendo. Oh. Rosina mi sta svenendo. Grazie, Lucilla. Oh, grazie. Non so. Trilleggiate. E questa la dedichiamo a Claudia, anche se non è la sua preferita. È arrivato un altro trillino. E questa canzone è dedicata anche a Francesca, naturalmente, e ad Ada, obviously. Vabbè, ma noi non ce la possiamo dedicare. Noi siamo giusto in tre, guarda. E noi abbiamo già sto pensiero stupendo. Dopo usciamo, no? La fissazione stupenda. Che, se pensarci, la potremmo anche dedicare a Consuelo. Hai visto mai che nel tempo Consuelo se l'è già dedicata da sola? Se l'è dedicata da sola. Consuelo fa le fusa. Il presente pensiero stupendo. Avanti, diteci quante di voi non hanno sognato con questa canzone, via, un po' di sentimentalismo. Lei, succedendo qualcosa, no, Annalisa? No, io ho spento il cellulare. Annalisa c'ha l'occhio furbetto. No, mi guarda, perché i trillini sono tutte le nostre ascoltatrici. Sono arrivate una caterva di trillini e noi vi ringraziamo. Stupende. No, perché il problema è che Annalisa mi ha piazzata vicino al telefono e secondo me lei continua a trillare per il gusto di vedermi alzare il telefono. No, no, sono i trillini delle nostre ascoltatrici, per fortuna. Trilleggiate, trilleggiate pure. Ma noi lo mettiamo la prossima volta costantemente un pensiero stupendo, non c'è problema. Rosina spera di sentire la voce di un'ascoltatrice. Cioè, certo, che mica fanno che sempre più trillini. Vai, Rosina, rispondi, vai. No. Dai. Rifiuto. Non fare la timida. Perché Summertime di Janis Joplin che vi ha fatto? E questa qui la dedichiamo a Pina e Caterina. Sì. Come gemelli, no? Perché sì. Ah, ho capito. Ora il tempo sta proprio per scadere, eh? Tra poco ce ne andiamo a mangiare una pizza noi, eh? Va bene? Madonna mia, se vedete la faccia di Rosina, evviva Rosina, le hanno scritto. Sì, ma detto, poteva anche firmarsi questa simpatica ascoltatrice. No, così, avrà avuto la calza. Nella calza c'erano sufficienti dolci. Dunque, ha scritto evviva Rosina perché non l'ha ancora vista col cappello di David Crockett. Questo messaggino lo voglio leggere perché è molto molto grazioso e comincia così: miau. A proposito dell'articolo, Janis Joplin me fa morire, ciao, bella puntata oggi, miau. Insomma, grazie a questa gattona che ci ha scritto. Ciao gatta, sei affetta da gattismo o da lesbismo? Facci sapere. Allora ringraziamo tutte quelle che hanno collaborato a questa trasmissione, che sono Consuelo Orsini, Malgrel, Angela, Angela dalla provincia, Rosanna, e Rosanna Fiocchetto, dalla provincia, anche lei fuori regione. E vi salutiamo noi tre, che siamo Annalisa, Lucilla e la splendida Rosina. E la splendidissima Rosina. Noi ci vedremo, ci sentiremo la settimana prossima e ci vedremo alla prossima nostra iniziativa, d'accordo?